Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il massacro di Aigues-Mortes. Racconto e voce di Marco Lupo, colonna sonora a cura di Marco Laudando. Prima del sale c'era la terra. Bisognava pulire il terreno e livellarlo. I francesi dicevano nivellage. Quindi si introduceva l'acqua salmastra. Succedeva a maggio, nei bacini di Pequet, le più grandi saline di Francia. Succedeva nel 1893. A giugno il sole faceva evaporare l'acqua. La terra scompariva sotto centimetri di materia granulosa. A quel punto si andava di battage e lavage. Si frantumava il sale, se ne facevano mucchi, si trasportava il sale lasciato a riposare tra i mucchi verso altri mucchi, più grandi dei primi, che i francesi chiamavano camelli, perché avevano le gobbe. Si ricoprivano i camelli di paglia e tegole e si scongiurava il cielo di agosto. La pioggia non doveva scendere in quei giorni. Gli operai erano organizzati in squadre. Le squadre erano distinte per nazionalità. La giornata di lavoro durava 11 ore, dalle 6 alle 6. Un'ora di riposo per asciugarsi, mangiare un pezzo di pane e contare i franchi guadagnati a cottimo. Se avevi le spalle larghe, potevi racimolare fino a 12 franchi. Se rallentavi il ritmo, la tua squadra perdeva punti. E allora il salario scendeva a 9 franchi. Se una squadra francese rallentava una squadra italiana, gli italiani facevano luccicare i coltelli. L'ammonimento in genere funzionava. Quell'anno, nelle saline di Pequet, c'erano 300 italiani e 600 francesi. Gli italiani venivano dal Bergamasco, dal Piemonte e dalla Toscana. Tra i francesi la minoranza era composta da autoctoni. Vivevano tutto l'anno ad Aigues-Mortes, a 8 chilometri dalle saline. Gli altri, i trimerdeux, erano vagabondi e ladruncoli che giravano per le regioni francesi in cerca di lavori stagionali. Il 16 agosto del 1893, sul deserto di Oro Bianco, iniziano i lavori. Le due saline attive, la Fangeuse e la Gojou, vedono centinaia di piedi e pale penetrare lo strato grezzo di sale battuto. A poche ore dall'inizio, mentre la luce piega le schiene e scatena reazioni cutanee, accade che un uomo litiga con un altro uomo. Sono un francese e un italiano. Vengono da città diverse e parlano lingue diverse, ma si stanno piegando sulla stessa materia, nello stesso momento, e non possono ignorare che sono parte della stessa feccia. Sono operai, schiavi che lavorano per altri schiavi che loro chiamano capo. Poi ancora un litigio. Ancora un italiano e un francese. Il primo giorno di lavoro promette sudore e rabbia. Quando è l'ora, alla Fangeuse, gli operai si stendono sulla sabbia e consumano lo spuntino. Dall'alto, se uno potesse vederli, ci sono 200 italiani da una parte e 100 francesi dall'altra. Un italiano, uno di Torino, s'alza, s'asciuga il sudore della fronte e si dirige verso una tinozza d'acqua dolce. Lo chiamano l'oro trasparente, gli operai. L'uomo slega il fazzoletto dal collo e lo immerge nella tinozza. Ha bisogno di refrigerio, di acqua che non faccia prudere la pelle. Uno dei francesi, steso proprio come un italiano, o come uno dei tanti esseri umani che tra una schiena spezzata e l'altra si riposano in posti in cui nessuno riposerebbe, gli dice qualcosa. Non si sa cosa gli abbia detto. Le testimonianze sono state insabbiate. Il sale che è cresciuto dalla terra ha riempito le teste dure degli uomini molli e non si sa molto. Si conosce solo un particolare. Il francese e i suoi compagni ascoltano il torinese che dice che se ne infischia di lui e dei suoi compagni. Così accadono le cose. Scoppia una rissa sul sale. Gli uomini scivolano, imprecano, bestemmiano, brandiscono coltelli, pale. Il torinese, che sa muovere i coltelli, ferisce uno degli uomini che lo hanno aggredito. Gli italiani non intervengono. Qualcuno pensa che non doveva succedere. Qualcuno pensa che aveva ragione il francese. Qualcuno pensa solo alle ore che mancano. A mezzogiorno è ora di pranzo. Le squadre si scrutano. Gli italiani, i francesi. Il sale che luccica nel deserto abitato solo da operai. Poi accade che un francese lancia una pietra nella baracca degli italiani. Allora una delle baracche in cui dormono i francesi viene circondata dagli italiani. Il sole e la rabbia hanno stretto alleanza. Gli italiani urlano «Viva Italia! Abbasso Francia!» Uno slogan che racconta il futuro. Qualche operaio francese riesce a correre via, verso la città, verso Aigues-Mortes. Il giudice di pace viene informato dei fatti. Che i fatti raccontassero cose assurde, come di morti e feriti, non importa. Il giudice di pace era stato informato dei fatti. In città, intanto, si sparge la voce di un massacro. Il massacro verrà dopo, ma ora la voce dice che il massacro è stato compiuto dagli italiani. Si chiama psicosi collettiva. Ha a che fare con un mucchio di variabili e nessuno è in grado di calcolarle. Così si organizza una folla. Ci vuole un drappo rosso e un po' di voce. La folla urla «Viva Ravachò! Morte agli italiani!» Uno slogan che racconta passato, presente e futuro. Gli operai, sparsi per le stradine del centro di Aigues-Mortes, corrono e si nascondono. Solo un padre e un figlio restano allo scoperto. Verranno coperti di sangue. Il prete, tale Don Mouget, li proteggerà. Verso le 3 il banditore verrà ingaggiato per bandire gli italiani e una folla di francesi rabbiosi lo seguirà urlando lungo i vicoli della città del sale. La chiamavano caccia all'orso. In quei minuti 63 italiani in fila in un panificio per pagare il conto scoprono che non è possibile uscire. In 2 ci hanno provato e sono tornati completamente insanguinati. Bical, il fratello della proprietaria, spranga le porte e decide di proteggere gli italiani da un linciaggio sicuro. Le forze dell'ordine praticamente non esistono. In città a quell'ora ci sono 6 gendarmi e 15 doganieri, mentre fuori, nelle strade, un migliaio di francesi chiede la testa di centinaia di italiani. Alfred Biblemont lancia il primo sasso. Urla alla folla che gli italiani devono essere sgozzati. Un adolescente appena è il Biblemont, ma la folla è eterogenea. C'è anche Joseph Boulineau che urla con lui, che incita la folla a fare fuori gli italiani. Dentro, intanto, nel panificio, si soffre. Antonio Cappellini respira profondamente, parla con un paio di compagni e decide di provarci. Escono da una porta laterale, ma vengono subito rincorsi. Cappellini si salva, ma sa che molti dei suoi sono morti nella fuga. La notte non passa senza rumori. I tamburi rullano e 500 francesi ubriachi cercano di fare morti italiani. Il prefetto intanto ha organizzato una serie di viaggi per portare la maggior parte degli italiani intrappolati al panificio alla stazione. Ci riesce. We'll be right back. ufficialmente il sindaco e il prefetto decidono di espellere gli italiani dopo averli fatti licenziare dalla compagnia del sale. Sanno che è l'unico modo per salvarli. Lontano dalla città, nelle saline, quando la luce dell'alba rischiara il sale accatastato nei mucchi, una banda di francesi si dirige verso le baracche degli italiani. Quasi tutti ignorano gli avvenimenti. Nessuno sa del panificio, dell'assedio, dei morti ammazzati per strada. Una delle baracche degli italiani viene assediata. Si lanciano pietre, si urlano maledizioni. Florestan Blanc, Alfred Bibelmont, già visto al panificio, Prosper Joubert, Lazare Bourget, Jacques Leclache, Philly Lott. Operai impazziti che vogliono ammazzare lo straniero. Nella baracca degli italiani piovono tegole e le porte vibrano per le spallate. E gli italiani hanno paura. Ma arrivano i gendarmi. Sono pochi, anche se sono gendarmi. Decidono di dirigersi verso la città. La banda di francesi armati, urlanti, li segue. Molti tra gli italiani scelgono i campi. Per alcuni la scelta è difficile. Rimanere accanto ai gendarmi e sperare nella protezione della legge, oppure correre tra i campi facendo affidamento sulle gambe. Giovanni Fontana, per esempio, sceglie la seconda. Muore con un forcone infilato nella schiena. La colonna di italiani e gendarmi si avvicina alle mura medievali della città, ma sbagliano e incontrano un vicolo cieco. I francesi lanciano sassi e colpiscono duro con tutto quello che hanno a portata di mano. Quelli che restano sulla terra ci restano. Vengono ammazzati dalla folla che non lesina colpi. Donne, ragazzini e adulti si lanciano sui corpi. Ci sono anche i cecchini piazzati dietro agli alberi. Per esempio c'è Jean Rouet, detto l'albino, che è un bracciante, che è un uomo che ammazza uno come lui. Uno che non ha nome. Si sa solo che era toscano. Cadono in molti in quei minuti, colpiti dalle pallottole, dalle pale, accasciati per la paura. Tutti quelli che si fermano vengono uccisi. Così la colonna arriva davanti a un palazzo. Ci si potrebbe rifugiare, nascondere. Il prefetto chiede al proprietario di entrare, ma l'uomo ha paura della folla. Lui deve viverci in quel posto. Se le cose si sono messe male, non è colpa sua. Chiude le porte e lascia la colonna alla folla impazzita. Revolverate che decimano, altri corpi che restano sulla polvere. I figli degli operai, intanto, lanciano pietre dagli alberi. Il gioco è divertente. Colpisci lo straniero. Alla fine, come in tutti i finali di guerra, si sa che ufficialmente ci sono stati 14 morti. 9 sono stati riconosciuti. Le testimonianze parlano di cifre diverse, tra i 50 e i 90. Morti nei letti dei fiumi, morti sul sale, morti nelle baracche, morti in città. Le autorità francesi hanno sepolto le testimonianze, hanno venduto il sindaco alla causa del capro espiatorio, hanno ceduto a conferenze bilaterali con gli emissari del governo italiano e la storia è diventata un aneddoto. La cosa buffa, se c'è una cosa buffa in tutta questa storia, è che l'anno dopo la popolazione di Aigues-Martin chiese a gran voce il ritorno degli italiani. In Italia, è chiaro, questa cosa fu vista male. La storia non esiste, se non la ricordi. Tra 100 e passa anni qualcuno ricorderà Rosarno.

1893, L'inchiesta, un documentario di Nella Condorelli. Voci di Francesco Foti, Enrica Rosso, Alessandra Costanzo, attori ed attrici del Teatro del Baglio di Villa Frati, musiche originali di Massimo Zamboni. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Tiziano Panici, uno dei curatori della terza edizione di Over, Emergenze Teatrali a Roma, Argot Studio, dal 23 aprile al 29 maggio 2022, ben trovato. Ben trovato Federico, ben trovati agli ascoltatori, piacere come sempre tornare a raccontare delle vicende dell'Argo in questa trasmissione che segue, devo dire, sempre con grande attenzione. Over è un progetto che effettivamente è nato in un periodo non molto fortunato per il teatro, perché è una rassegna, vetrina, esperimento che Argo ha inaugurato insieme al NEST. Il NEST, per chi non lo conoscesse, è un piccolo teatro molto simile al nostro Spazio Romano, che però si trova a Napoli e ha anche delle caratteristiche molto simili, cioè sono sia un teatro, quindi uno spazio che ospita compagnie giovani e meno giovani, e anche una produzione, quindi anche una compagnia che porta in scena i loro spettacoli e che soprattutto però sostiene anche altre formazioni indipendenti. Quindi la volontà da parte di entrambe era quella di creare un progetto di rete, di sostegno tra queste due città, consentendo una doppia vetrina, una su Roma e una su Napoli, alle compagnie che avremmo cercato di seguire, con un accompagnamento produttivo. Che significa? Significa che le compagnie che vengono selezionate per questa rassegna sono ospiti in residenza presso lo Spazio Argo, presentano un loro primo tentativo di messa in scena, non proprio uno studio ma quasi la conclusione di quella che è il lavoro, lo propongono a un pubblico che è composto anche da operatori e da operatrici teatrali e anche dai ragazzi di dominio pubblico che sono tra i partner del progetto dall'inizio, e anche i ragazzi dello Spazio Nest, perché anche loro hanno un progetto molto bello di formazione per un pubblico molto giovane che hanno incrociato insieme al nostro. E poi a Napoli presentano lo spettacolo ormai finito in una vetrina appunto gemella che viene ospitata appunto dal Teatro Napoletano. Tutto questo ovviamente avveniva all'alba della pandemia, quindi nel 2020, non avendo potuto fare la rassegna in maniera continuativa, abbiamo inaugurato e dato vita a un premio con cui siamo riusciti a produrre uno degli spettacoli che quest'anno mostreremo per l'appunto in questa terza edizione di Over, che è lo spettacolo In Marcia, uno dei lavori appunto che troverete in programmazione ogni fine settimana di maggio presso il Teatro Argo. Iniziamo però molto presto, ecco, c'è scritto dal 23 di aprile, perché già in sala all'Argo c'è una compagnia tutta al femminile che si chiama Creature in Gat, che è in residenza artistica, quindi significa che non mostrerà il suo lavoro al pubblico, ma soltanto appunto agli operatori, perché è un lavoro in costruzione che debutterà soltanto quest'estate, grazie ad un altro pezzo importante che è la Rete Nazionale di Risonanze, ovvero un network nato per sostenere, promuovere compagnie sotto i 30 anni. Quindi ecco, tutte queste reti, tutti questi network sono un segno dei tempi che corrono, cioè uno dei metodi di resistenza, di resilienza che gli artisti teatranti italiani hanno adottato chiaramente per poter continuare a portare avanti una scena molto giovane. Quindi oltre alle compagnie che vi ho appena citato, dal primo weekend di maggio si va in scena invece con Cubo Teatro, compagnia che invece viene da Torino, con cui stiamo ovviamente cercando di ampliare anche il discorso di rete in altre aree d'Italia, e chiude la rassegna nell'ultimo weekend di maggio la compagnia Impegnoso Sesti da Roll, con uno spettacolo che è stato finalista al premio Scenario, che si chiama Tonno e Carciofini, una storia wrestler. Quindi ecco, si tratta di progetti davvero particolari. Ne manca soltanto uno da citare, che è la compagnia B-Stand, segnalata proprio da Nest di Napoli, che sono sempre nella programmazione appunto di maggio, vanno in scena con il loro Uccelli di Passo. Anche qui parliamo di un primo esperimento non ancora giunto a conclusione, ma che per l'appunto lo Spazio Trasteverino si impegna ad ospitare per cercare, ecco, di mappare, di dare traccia di queste compagnie nuove, indipendenti, molto giovani, con delle bellissime storie da raccontare, che stiamo cercando anche di sostenere e far volare più lontano possibile dal nido, diciamo, dalla casa di produzione. Come funzionerà per ogni spettacolo? La compagnia sarà in residenza 2 giorni al Teatro Arco, e quindi ci saranno soltanto 2 giorni invece di esposizione pubblica, che sono il sabato e la domenica. Il sabato alle ore 20:30 e la domenica alle ore 17:30. Tutte le informazioni, come sempre, le potete recuperare dal nostro sito e dai nostri canali social, quindi su Facebook o su Instagram cercate Argo Studio e troverete già tutta la programmazione. Il nostro sito invece è www.teatroargostudio.com. Lì sono indicati gli orari, c'è la possibilità, come sempre, di prenotare online o altrimenti di chiamare il numero 06 58 98 111 e venirci a trovare per scoprire appunto questi esperimenti fantastici di emergenze teatrali. Terza edizione di Over, emergenze teatrali a Roma, Argo Studio, dal 23 aprile al 29 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Tiziano Panici. Alla prossima! Grazie a te, alla prossima! Con Silvano Falocco, coautore del libro La Resistenza a Roma, Orazione Civile. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come lo descriveresti? È un racconto di alcuni mesi che vanno dal luglio del 43 al giugno del 44, di ciò che è successo tra bombardamenti, occupazione nazista, repubblichini in città, fascisti e resistenza. Un racconto serrato che dovrebbe consentire di entrare dentro i giorni della resistenza romana. Come è partito tutto? Da una storia personale. Mio padre è stato partigiano in Jugoslavia, mia madre è stata bombardata nel palazzo di San Lorenzo, quello che ancora si vede con le macerie, e quindi dall'incrocio di queste due storie mi sembrava che dovessi un tributo alla loro storia, che forse ho capito poco quando me la raccontavano. Come è strutturato il libro? Parte dal bombardamento di San Lorenzo ed è pensato come fosse una cronaca della quotidianità di Roma, dando conto anche di quelle che sempre di più sono difficili da dire, di quelle presa di armi da parte di intellettuali, popolo, militanti, attivisti, che a Roma erano attorno agli 8.000, con le loro iniziative che oggi magari è difficile pensare, ma che invece hanno molto valore, dai chiodi a 4 punte, invece a iniziative armate, alla caccia libera, a tentativi di far saltare per aria il comando generale tedesco. Quindi è una descrizione serrata di quegli istanti per far capire alle persone come si dovesse vivere e qual è il valore morale dei resistenti romani. Quanti episodi hai portato all'attenzione? Sono 20 episodi e sono come 20 fotografie di ciò che è successo a Roma. Ogni fotografia, la difficoltà del libro nella scrittura è stata quella di scegliere questi episodi, ma anche quella di descriverli in modo letterario, in modo tale che le emozioni prevalessero e emergessero dalla scrittura. Ma sono 20 episodi, tra cui ce ne sono nobili e meno nobili, come i delatori, come la banda bar di Pollastrini, come il ruolo appunto dei repubblichini in città, cosa che non è così scontata a livello di conoscenza. Quali sono state le fonti? Noi abbiamo fatto un lavoro che è durato anni di archiviazione di tutto ciò che è stato scritto sulla resistenza romana, quindi non sono mai fonti archivistiche, però abbiamo sempre cercato di stare sulle fonti più aggiornate. Poi ovviamente all'interno del libro emergono anche le storie personali. L'incipit del libro, quello sul bombardamento di San Lorenzo, è tutto filtrato dalla memoria della famiglia e quindi ci sono dentro anche i racconti di persone che hanno sempre avuto difficoltà a vedersi riconosciuta quella storia, perché erano bombardamenti alleati, e quindi i 52 bombardamenti che hanno devastato Roma nel periodo che va dal luglio del 43 al giugno del 44 non sono stati così riconosciuti, le persone hanno vissuto per anni in un dolore poco compreso perché hanno perso persone, hanno perso case, ma alla fine era difficile collocare questo dolore, dargli un senso storico, insomma, quindi da lì siamo partiti. Stampato con le Comari Edizioni, ci parli di questo incontro? È un incontro singolare perché una casa editrice piccola che invece fa degli investimenti nel secondo nostro libro che è Roma Coloniale. A partire da questo libro è nata una collana di quaderni della memoria civile. È stato un incontro fattivo e molto generativo, nel senso che l'idea di avere questo tipo di racconto, perché in Italia conosciamo o i libri di storia e saggi che sono ovviamente fondamentali, ma parlano un pubblico sempre più ristretto e selezionato, e dall'altra ci sono i romanzi storici. Noi invece abbiamo inaugurato una nuova versione, quella del racconto storico, e ovviamente abbiamo trovato qualche difficoltà negli editori perché è una forma inedita. Questo peraltro è un libro pensato per essere letto a voce alta, cioè per essere interpretato dalle persone. Quando l'abbiamo presentato un anno fa, il 25 aprile del 2021, l'abbiamo fatto in piazza e sono stati 15 attori che hanno letto i capitoli, perché si presta proprio a suscitare l'emozione da parte di chi lo legge, lo suscita anche noi, è come se non l'avessimo scritto noi, ecco. Per tutte le informazioni ho visto che c'è il sito internet lecommariedizioni.it con una pagina dedicata proprio al tuo libro. Sì, esatto, è un libro che è andato bene, nel senso proprio che va incontro a una esigenza, cioè che è quella di riuscire a raccontare in un mondo che è molto veloce e dove le informazioni sono in eccesso, ma generalmente è un eccesso che porta ad una bulimia con poco senso. Allora avere dei testi che partono da fonti storiche e che le reinterpretano attraverso la scrittura, la lingua, la punteggiatura, l'interpretazione orale, li reinterpretano in modo tale da essere vissuti, è una cosa nuova e inedita, insomma, di cui siamo molto contenti, e uno può andare a vedere nel sito delle Comari cosa si dice del libro e gli appuntamenti che si danno di presentazione del libro. Il libro La Resistenza a Roma, Orazione Civile, un saluto e un ringraziamento al coautore Silvano Falocco. A presto! Grazie a tutti! Con Marcello Cava, direttore artistico di Memorie Antiche con il Teatro Mobile, drammaturgie d'ascolto e nuove percezioni. Nel fine settimana a Roma dal 15 al 30 aprile 2022, ben trovato. Grazie, ben trovati a tutti voi. Ce ne parli? È un progetto molto semplice, che è quello che stiamo un po' realizzando da tempo con questa nostra idea di teatro mobile. Sostanzialmente consiste nel visitare dei luoghi archeologici, in questo caso nella parte di aprile sono i luoghi dell'Appia Antica, che sono straordinari, poi in maggio andremo ad Ostia Antica e a Tivoli, visitare questi luoghi in una dimensione diversa, cioè con l'ascolto e la visione di un testo teatrale appositamente inscenato e immaginato per il luogo stesso che ospita questo evento. Quindi lo spettatore, visitatore, viene munito di un'audio cuffia e, come in un silent party, assiste, sente l'intera colonna sonora registrata ma anche seguita dal vivo di attori e musicisti, muovendosi nel percorso che abbiamo stabilito e incontrando gli attori e gli artisti che interpretano di volta in volta il progetto che andiamo ad individuare. Questo è un progetto chiaramente ecosostenibile, senza impatto acustico, senza allestimento, che punta a coinvolgere lo spettatore in una dimensione fortemente emozionale nella percezione di questo percorso che fa insieme a noi, e quindi si realizza nel rispetto assoluto di questi luoghi e per la valorizzazione, per dare voce a questi luoghi in una maniera nuova e più originale. Come era nato il progetto? Noi da tanti anni ci siamo occupati di spettacoli in questi luoghi meravigliosi, di cui Roma, e non solo Roma, naturalmente è piena, ed emergeva sempre il problema innanzitutto di rispettare i luoghi, di evitare allacci elettrici, impatti acustici ed altro, e poi spesso di convivere con situazioni, non so, i fori imperiali, il traffico, i rumori della città o altri tipi di disturbi degli altri visitatori stessi. Quindi l'idea di realizzare un evento che non avesse nessuna caratteristica di invadenza per gli altri fruitori, ma che fosse invece fortemente emozionale e coinvolgente. Ante, quindi è nato nel 2016, mi sembra, in occasione di un anniversario di Shakespeare, facendo appunto degli Shakespeare ai fori imperiali in quell'occasione, poi da lì lo abbiamo sviluppato e ripreso, portando in scena insomma tantissimi testi, a Pompei, Pestum, in tanti luoghi meravigliosi, e a Roma veramente in musei, aree archeologiche, anche di archeologia industriale, anche delle periferie, insomma in tantissimi luoghi. È diventato una sorta di piccolo format che stiamo contribuendo a diffondere, che ci dà sempre grande soddisfazione, grande riscontro anche nei fruitori. E ovviamente poi ora nel delirio del Covid è particolarmente compatibile, perché chiaramente la qualità dell'ascolto è sempre ottima, quindi gli spettatori possono rimanere distanziati tra di loro e godersi i campi lunghi, le loro visioni come vogliono, e quindi si evita anche un assembramento ulteriore rispetto alle problematiche che ci hanno funestato in questi ultimi tempi. Com'è stata la scelta degli autori e dei testi? Questa è una scelta che facciamo sempre, proprio sit specific, come si dice. Facciamo sempre con Pina Catanzariti, che fa le drammaturgie ogni volta per ogni evento. Il luogo, ripeto, non è mai un contenitore casuale, il luogo diventa sempre la ragione stessa del nostro progetto, e quindi cerchiamo, anche in collaborazione con gli esperti del posto, eccetera, di individuare sempre la cosa giusta da fare. E quindi di volta in volta cerchiamo, dal patrimonio della nostra letteratura, del teatro o da nuove scritture, la cosa giusta. Naturalmente abbiamo lavorato molto sulle memorie di Roma antica, abbiamo proposto e riproporremo un'Octavia, che è l'unica tragedia romana ambientata a Roma e non, diciamo, in un tempo mitico, che racconta appunto di Nerone, Poppea, dei vari deliri del potere. Abbiamo lavorato molto sull'immaginario di Roma, su Shakespeare in particolare tantissimo, ma anche Camus con il Caligola, che riproporremo. Abbiamo fatto anche Nerone di Petrolini, cioè, quindi un immaginario a 360 gradi. E poi cerchiamo anche, che ne faremo ad Ostia Antica, la linea d'ombra di Conrad al Museo delle Navi. Iniziamo con una via crucis laica, con un progetto che si chiama 15 stazioni, che viene fatto il sabato di Pasqua lungo l'Appia Antica, e che è un ascolto di un collage di testi straordinari scelti da Pina Catanzariti, con grandissimi attori come Galatea Ranzi, Evelina Megnaggi, eccetera, che ci fanno ascoltare una visione laica e assolutamente forte e politica, però parafrasando proprio un tema della Via Crucis, quindi con le stazioni del percorso, quindi siamo stati anche attenti alla contingenza temporale. Così come a ridosso del 25 aprile proponiamo testi legati a appunto Caligola di Camus, poi ci sarà Coriolano fatto da Il Loco Teatro, che è il partner di questa iniziativa, che è una compagnia di attori e di teatranti straordinaria di Roma, che collabora insieme a noi alla realizzazione per intero di questo progetto. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Tutto è in teatromobile.eu, lì, cioè praticamente linkando, ci sono tutti gli eventi, che sono tutti gratuiti, fatto salvo a volte il pagamento di una piccola quota di ingresso a dei luoghi, ma è tutto specificato, però gli eventi sono gratuiti, ci sono tutte le schede degli eventi, ci saranno tutte le modalità per prenotarsi online, perché chiaramente i posti sono comunque limitati dal numero di partecipanti che possono fare quel percorso che di volta in volta stabiliamo. Quindi è tutto in www.teatromobile.eu. Memorie antiche con il Teatro Mobile, drammaturgie d'ascolto e nuove percezioni a Roma il fine settimana dal 15 al 30 aprile 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marcello Cava. A presto! Grazie a voi, grazie, a presto, arrivederci, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.